24 mattino di Alessandro Milan. Le 7.31, eccoci cari ascoltatori in diretta fino alle 9 come di consueto con 24 mattino. E allora di cosa parliamo oggi nel nostro sondaggio? Di scuola e di maturità, perché si avvicinano gli esami e c'è polemica sulle nuove norme previste dal ministero, il ministro Gelmini, il fatto che quest'anno dovranno essere ammessi alla maturità solo chi ha tutti gli studenti che hanno tutte le sufficienze. Ieri le polemiche, il ministro Gelmini ha precisato, non è che basta un 5 per essere bocciati, ci vorrà buon senso per non essere ammessi. Ma vi chiediamo, si può essere ammessi con anche non tutti 6 secondo voi all'esame di maturità? Dovete votare su radio24.it, parleremo di scuola, l'accesso alla maturità, il 6 politico che qualche professore dice dovremo rispolverare per evitare la mannaia sugli studenti da ammettere alla maturità. Votate, ripeto, su radio24.it nella home page, bianco o nero, ne parleremo poi alle 8.30 nel nostro sondaggio. Intanto la lettura dei giornali. Infinity, autosportive che ispirano. Infinity, inspired performance. Vi presenta In Primo Piano. È mercoledì 9 giugno, le aperture sono diversificate, il Sole 24 Ore ancora sulle pensioni dal 2012, lo scalone pensioni. Il Corriere della Sera, Berlusconi all'attacco dei PM. C'è la vicenda, insomma, soprattutto della protezione civile sulla quale puntano alcuni, come il Fatto Quotidiano, umiliati e offesi perché Berlusconi ha detto qualcuno con la mente fragile potrebbe sparare alla protezione civile se andiamo in Abruzzo, stante le accuse che ci hanno fatto. Il PDL blinda la legge bavaglio per Repubblica, quindi le intercettazioni anche sulla stampa, intercettazioni legge blindata. Il Giornale, Berlusconi esasperato, adesso si fa come dico io. Libero continua con i soldi, così buttano i vostri soldi. Per l'Unità, se questo è un premier, e c'è Berlusconi che attacca i PM, minaccia la RAI, un po' di tutto. D'altronde Berlusconi ieri ha parlato un po' dell'intero mondo e dunque ha parlato appunto della RAI, ha parlato di protezione civile, di questa accusa per lui assurda di omicidio colposo per la Commissione Grandi Rischi, e ha detto questa frase appunto, poi ho detto alla protezione civile di non andare in Abruzzo, sennò qualche mente fragile che magari ha perso qualcuno sotto le macerie potrebbe anche spararli in testa. E il Corriere a pagina 3 c'è anche il vice di Bertolaso, Gabrielli, che dice tra l'altro Gabrielli, ex prefetto dell'Aquila, designato dallo stesso Bertolaso come suo successore, ha detto: per carità, la magistratura deve fare il suo lavoro, ma tutti questi soloni che ora dicono che tutto poteva essere previsto, dov'erano nei 5 giorni prima del terremoto? Non uno che espresse perplessità all'epoca. E proprio su questo, tra l'altro, il Corriere con Fabrizio Caccia va a sentire il procuratore protagonista Alfredo Rossini, procuratore capo dell'Aquila, che ironizza, definisce quelli della previdenza sociale, chiama così quelli della protezione civile con ironia, con distacco, con indifferenza, sornione, chiama previdenza sociale la protezione civile e sbaglia apposta con ironia tagliente. Non entro in polemica. Continueremo a lavorare come al solito, bene, velocemente, rispettando le leggi vigenti. Poi c'è un ritratto di chi è questo Alfredo Rossini, procuratore che in passato ha indagato sul terrorismo, sul NAP, sulla tragedia dell'Eisel, dove persero la vita 39 tifosi della Juventus nella finale di Coppa dei Campioni di allora. Fece anche una crociata antiporno, convocai Moana Pozzi, volevo capire se in quel mondo sfruttavano le donne e i minori, trovai in lei una persona coraggiosa, vittima però di una sorta di cupio dissolvi, quasi volesse autopunirsi per qualcosa. Come si definisce Rossini? Agnostico, non credo in Dio, il mio modo di procedere è laico, sereno, neutrale. Sul comodino tiene il Candido di Voltaire e la Città del Sole di Campanella. Non sono né un moralista né un bacchettone, io sono morale. Questo è il procuratore che appunto ha aperto questa indagine per omicidio colposo che ha fatto scatenare Berlusconi ieri con questa frase, tanto che molti giornali come l'Unità, anche il Fatto, vanno a sentire i familiari delle vittime, offeso il nostro dolore. Insomma, questa esternazione di Berlusconi ha dettato un po' l'agenda politica, ma l'agenda politica vera, quella un po' più concreta al di là delle frasi del Premier, è sicuramente legata al tema delle intercettazioni. Il tema delle intercettazioni, la legge che Berlusconi alla presidenza ieri del partito ha fatto sapere è blindata, è questa, tanto da suscitare sui giornali ancora diverse critiche. Il Corriere della Sera riaffida, è una rarità, ma riaffida Luigi Ferrarella, l'editoriale di prima pagina. Luigi Ferrarella, cronista di giudiziaria, divieti irrazionali, la prende da lontano. Ferrarella racconta la vicenda del governatore ex dell'Illinois, Rod Blagojevich, arrestato 18 mesi fa mentre cercava di vendere all'asta il seggio senatoriale lasciato dal presidente Obama. Ebbene, con la legge blindata ieri dal vertice del PDL, scrive Ferrarella, in Italia il caso Blagojevich non si ripeterà, perché mai le intercettazioni saranno pubblicabili, nemmeno per riassunto, fino al processo, anche se ormai depositate, anche se ormai non coperte da segreto, anche se penalmente rilevanti su fatti non privati, ma di interesse pubblico. Dunque Ferrarella scrive: diverso è il caso di ragionevole di vietare la pubblicazione di telefonate private o irrilevanti in cui il giudice abbia ordinato la distruzione, ma se invece il giornale, un qualsiasi giornale che si azzarderà a violare l'irrazionale divieto appunto di pubblicare anche intercettazioni depositate, non coperte da segreto, ebbene questo giornale verrà seppellito da sanzioni pecuniarie fino a 309.000 euro a notizia, agganciate alla responsabilità amministrativa oggettiva dell'editore, norma che costringerà l'editore ad adottare modelli organizzativi e organi di vigilanza che impediscano ai giornalisti di commettere questo reato. E anche in prima pagina di Repubblica Ezio Mauro, il direttore, fa un fondo molto breve: il popolo e la libertà, soltanto un potere impaurito poteva decidere di proteggere se stesso con una legge che ostacola la libertà delle inchieste contro la criminalità, riduce la libertà di stampa, limita soprattutto il diritto dei cittadini di essere informati. Questa, per Ezio Mauro, è la vera legge della casta che ci governa e ha paura. Ma anche sulla stampa le critiche, c'è da dire che a difendere questa legge sono Filippo Facci su Libero e il giornale con Alessandro Sallusti fa l'editoriale di prima pagina, mette insieme un po' tutte le dichiarazioni di Berlusconi: per sconfiggere una malattia grave ormai cronica la medicina deve essere forte, altrimenti si muore. E allora in questo paese, scrive Sallusti, ci sono dei cancri che si stanno diffondendo, per esempio l'uso selvaggio politico e mediatico che una certa magistratura fa delle intercettazioni telefoniche, per esempio l'uso privato e partigiano che certi conduttori fanno delle trasmissioni RAI, per esempio il tentativo da parte di alcuni PM di distruggere la protezione civile. Ecco, allora mette insieme i vari attacchi che ieri ha fatto Berlusconi a dire: ieri è successo che Berlusconi ha detto con forza e semplicità che non permetterà che alcune libertà spariscano divorate dai cancri. Questo Alessandro Sallusti, il condirettore del giornale. Certo, il tema sulle intercettazioni è questo. E che farà il Quirinale? Liana Milella su Repubblica analizza così, diciamo, la freddezza per ora del Quirinale, freddezza che non potrebbe essere maggiore quando dal Colle fanno sapere che il capo dello Stato valuterà solo alla fine del percorso parlamentare qual è il risultato legislativo e in quel momento darà il responso. Insomma, mentre la politica si interroga sulle intercettazioni, certo c'è la manovra sullo sfondo. E qui iniziamo alcune cose serie, molto serie, e alcune che appaiono ormai delle barzellette. Allora, quelle serie sono che Tremonti è andato, era ieri a Lussemburgo, ha confermato la presentazione all'Ecofin che il saldo della manovra non deve cambiare, dunque sia la discussione in Parlamento, come legittimo che sia, non deve cambiare. Però c'è poi, sempre di questioni molto serie, la questione delle pensioni, sulle quali ancora il Sole 24 Ore oggi apre, cioè l'ipotesi, sapete che l'Unione Europea ci ha detto dovete dal 1 gennaio 2012 alzare a 65 anni la pensione, l'età delle pensioni delle donne statali, insomma dipendenti pubbliche, come gli uomini, altrimenti c'è discriminazione. Come alzare questa pensione, questa età della pensione? Due le ipotesi, spiega Davide Colomba, pagina 8 del Sole. Una è quella di fare un aumento graduale, allineamento dunque che prevede l'innalzamento di 2 anni a partire dal 1 gennaio dell'anno prossimo e poi gli altri 2 anni dal gennaio 2012, dunque da 61 a 63 e poi a 65. Un'altra ipotesi, e sarebbe quella più probabile per il Sole, quella di fare uno scalone unico, saltare a 65 anni dal 1 gennaio 2012, una soluzione più d'impatto, ma in qualche modo questa soluzione viene definita più generosa. Pare che domani i ministri Sacconi e Brunetta possano presentare in Consiglio dei Ministri l'ipotesi. Oh, e ora veniamo alle barzellette. Il taglio delle province, che è rispuntato per un emendamento dell'onorevole Donato Bruno. Taglio, il Sole la prende così, taglio soft solo per 4 province. E allora, se è vero che con le briciole si fanno anche i panini, e come dice qualcuno, taglio soft per 4 province, sono spuntate queste 4. Per il giornale invece così, primo taglio delle province, ma c'è il trucco, eccolo lì, già il trucco. Il Messaggero è incredibilmente ottimista, mini province verranno tagliate, Isernia, Vercelli, Vibo Valentia e Fermo, verranno tagliate, qualcosa di definitivo, in realtà non verrà tagliato niente. 4 province a rischio taglio, è già per la stampa. Allora, che si sono inventati? Taglio soft, hanno deciso di tagliare le province prima, hanno detto sotto i 200.000 abitanti. Poi è arrivato subito un subemendamento, l'emendamento era di Donato Bruno del PDL, è arrivato subito il subemendamento della collega, sempre di partito, Beatrice Lorenzin, che ha esonerato dalla sforbiciata gli enti che hanno più di 150.000 abitanti, ma il 50% di territorio di montagna. Non si capisce perché. Chi ha 50% di territorio di montagna, pur avendo 150.000 abitanti, è salvo. E questo avrebbe salvato Biella, Sondrio, Rieti, Crotone, la provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Tra l'altro sulla stampa c'è il presidente della provincia di Sondrio che dice: noi siamo l'avamposto vero del federalismo, ci hanno salvato, abbiamo la montagna ci ha salvato. E alla domanda un po' così dice: ma non è che vanno salvato perché la provincia di Sondrio, perché Tremonti è di Sondrio? Io il ministro Tremonti non l'ho nemmeno sentito. E poi, se c'è qualcosa da tagliare, questo è un gran classicone, si tagli le prefetture, si cominci da altrove, dalle prefetture. Tanto che staino, pagina 3 dell'Unità, c'è una donna tutta tremolante. Babbo, ma chi è quella signora angosciata che da un mese sosta lì davanti a Palazzo Chigi? Penso sia una provincia intorno ai 200.000 abitanti, che chissà se rimarrà oppure no. Intanto, sempre sui tagli, Libero ci punta ancora l'ennesimo giorno. Così buttano i vostri soldi. Si parla sempre del taglio delle province. Che bluff il taglio delle province. Cancellate solo 4 su 110, ma neanche quelle 4 saranno cancellate. Io insisto. Ebbene, c'è anche una lettera del senatore Pietro Ichino che scrive a Libero e dice: volete un paradosso? Io ho l'auto blu per motivi di sicurezza, viaggio su una blindata della Guardia di Finanza con molti svantaggi inimmaginabili, ma ho il vantaggio di non avere mai spese di taxi, questo per la Camera. Ebbene, essendo senatore, mi sono informato se fosse possibile rinunciare al rimborso delle spese di taxi, visto che io il taxi non lo uso perché ho la scorta. Mi è stato risposto dal Senato che questo atto non era previsto e avrebbe creato problemi burocratici di difficile soluzione. Cioè, il senatore Ichino, che ha la scorta, ha detto: caro Senato, caro Presidente Schifani, cari uffici del Senato, potete non rimborsarmi i taxi perché io non li uso? Questo ci crea problemi burocratici da risolvere. Quei soldi a cui non posso rinunciare. La lettera del senatore Ichino che dice: l'unica cosa che potevo fare, potete andare su www.pdl.com www.pietroichino.it, nella pagina rendiconti, do tutto in beneficenza. E per alla Fondazione Giuseppe Pera, per istituire borse di studio annuali per giovani laureati. È l'unica cosa che posso fare. Questi soldi, io il taxi non lo uso, ho la scorta, ma il Senato mi dice che non riceverli crea problemi burocratici che non si sanno come risolvere. In primo piano. Dite la verità, anche voi vorreste poter non dover rinunciare a dei bailout, rimborsi taxi, anche se il taxi non lo prendete mai. Così il Senato ha deciso. I cattivi pensieri di Silvio sulla RAI, c'è tutta la vicenda partendo dall'altra esternazione di Berlusconi sulla RAI dicendo o cambia, oppure o si cambia linea, oppure non rinnovo il contratto di servizio. In questo caso Berlusconi parlava da ministro allo sviluppo economico, di cui all'interim, poi è stato smentito da portavoce, credo Bonaiuti, ha detto ma no, insomma non ha mai detto che è faziosa, che la RAI continua a essere faziosa. Comunque la polemica sulla RAI c'è ovunque, anche perché c'è, è un po' un casino in questo momento in RAI, diciamo la verità. C'è la vicenda Santoro, stasera c'è Anno Zero, forse l'ultima puntata, non lo so, non l'ho ben capito, cioè di questa stagione, però forse anche l'ultima puntata in generale, perché il direttore generale della RAI Masi, secondo Repubblica, è una missione, in missione finale per il Cavaliere. Santoro non rifarà più Anno Zero, sarebbero disposti ad assalire da 10 milioni a 12 milioni, dare 12 milioni di euro per risolvere il contratto, far uscire Santoro dalla RAI e fare questo progetto di liquidazione e poi fargli fare delle docu-fiction. Poi che altro casino c'è? C'è che è stato reintegrato il direttore di Rai 3 Ruffini dal giudice. E allora l'attuale direttore Antonio Di Bella a Su Repubblica dice va bene, io mi sposto, è un mio amico Ruffini, l'hanno reintegrato, ha ragione, venga qui, ma date a me un incarico adeguato, altrimenti faccio causa anch'io. Certo, poi c'è tutta la vicenda di c'è Fabio Fazio che fa un'intervista al Corriere della Sera. Quanto è difficile fare un programma contro l'azienda. Non so come andrà a finire, ma certo la cosa peggiore del non andare in onda è fare un programma contro la volontà dell'editore. Fabio Fazio che dice la RAI è cambiata. Prima c'era il partito RAI, l'azienda. Lì sono cresciuto in 27 anni di lavoro. Ora quell'idea si è indebolita. L'ha detto lo stesso presidente della RAI Garimberti, la RAI è in pericolo. Non si può fare questo mestiere contro la volontà dell'editore. Parla anche Fazio della vicenda Saviano, il taglio possibile da 4 a 2 puntate di Saviano, dice tutto è cambiato da quando il Premier, da quando Berlusconi ha dato la colpa alla Piovra e a Gomorra di aver trasformato la mafia italiana nella più conosciuta al mondo. Tutto è cominciato da lì. A questo proposito, visto che di RAI ritorna anche il Fatto, fuori i conti, ieri il Fatto ha detto ci costano, la RAI spende 1,3 miliardi di euro per tutte le spese, programmi, collaboratori, eccetera. Abbiamo scritto alla RAI, hanno 30 giorni di tempo, quelli del Fatto dicono, per farci sapere come spendono 1,3 miliardi di euro. Su questo siamo tutti col Fatto. Ci facciano sapere, per trasparenza, come vanno questi 1,3 miliardi, se questa è la cifra, di euro. Visto che ho citato Saviano, io voglio citare oggi il direttore del Sole 24 Ore, Gianni Riotta. In prima pagina scrive un editoriale, un fondo, sulla vicenda Saviano, ormai attaccato, sembra quasi diventata una moda, da destra e da sinistra, il partito che attacca Saviano. Gianni Riotta, in prima pagina del Sole, la radice prima delle critiche che vanno appuntandosi sullo scrittore Roberto Saviano è l'invidia, scrive Riotta. Ciascuno dei polemisti che osteggiano in queste ore il saggista napoletano si adonterà subito davanti a questa palmare verità. Qualcuno agguanterà la tastiera del portatile per nuovi sfoghi polemici senza cambiare la realtà. Dice Riotta, che è da sempre estimatore di Saviano, ci sarebbe poco da aggiungere a Roberto se non un fraterno monito, così è la vita, così è soprattutto la vita in Italia, ma continua, è l'attacco, è il primo attacco vero del partito destra-sinistra, perché, scrive Riotta nel suo fondo, sia da destra che da sinistra per motivi diversi arrivano questi attacchi a Saviano. Il destra-sinistra degli untori di pozzi della verità scaccia Saviano come scaccia chiunque cerchi realtà e non slogan e caricature, con l'aggravante di invidia e gelosia. Roberto Saviano se la caverà, a patto di non smarrire mai il monito di Luigi Pirandello: il lavoro è il solo analgesico contro la canaglia. Lavori, scriva, tiri avanti, il tempo è galantuomo. Più difficile sarà liberare il nostro paese dalla camicia di forza dei propagandisti del destra-sinistra, diversi per colore di livrea, identici per metodi e chiusura mentale. Destra-sinistra, il partito che attacca Saviano, è in prima pagina del Sole. Gianni Riotta. C'è molto ancora di altri temi, ma il tempo è volato come sempre. Allora, ricordo solo il sondaggio nostro: dovete votare su radio24.it. La Gelmini ieri ha precisato: con un 5 non si boccia, bisogna ammettere la maturità, ma il rischio è quello del 6 politico per tutti, perché quest'anno chi non ha tutti i 6 non può accedere alla maturità. E molti professori dicono: che facciamo, uno ha un 5 in matematica, che faccio, lo boccio, non lo ammetto alla maturità per un 5? Questo è il tema. Secondo voi si può accedere alla maturità anche non con tutti i 6? Dovete votare su radio24.it. C'è molto anche di Flavio Briatore. Alle 8:19 minuti, eccoci qua con la nostra Deborah Rosciani. L'efficienza energetica e ambientale in azione. Cofeli, gruppo GDF Suez. Vi presenta Soldi e dintorni. Deborah, buongiorno. Buongiorno. Come sei? Autoritario stamattina, che non c'è tempo, dai. Allora, corri. Vado subito. Allora, torniamo a parlare stamattina dei prezzi dei carburanti. Oggi è davvero la giornata dell'auto, anche perché, come avete visto sicuramente da tutti i giornali, chi ha avuto il tempo di leggerli stamattina, il grande tema del giorno è l'allarme RC Auto, e noi ne parleremo a Salvadanaio, l'allarme che ha dato l'ISVAP: paghiamo le tariffe più alte d'Europa, il doppio. Stamattina Soldi e Dintorni ci soffermiamo sul prezzo invece dei carburanti. Se dovessimo fare una classifica, sicuramente il tema più gettonato della nostra trasmissione. E allora, mentre si sta discutendo della riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei distributori e gestori, mentre abbiamo parlato qualche settimana fa del lancio dell'iniziativa della società Autostrade Prezzo Amico, sconto sul self-service in 80 stazioni della rete autostradale, oggi parliamo di un comparatore di prezzi dei carburanti fra 21.000 stazioni di servizio italiane, il totale di quasi 24.000 distributori, e insomma, se abbiamo un motore di ricerca che ci permette di individuare quello più conveniente vicino a casa nostra, andiamo subito a collegarci. Si tratta di prezzibenzina.it. Stamattina il sito viene presentato dall'Adi Consum insieme al sottosegretario allo sviluppo economico Saglia e a Paolo Rigamonti, che è l'amministratore delegato della società che ha sviluppato il sito Prezzi Benzina. Noi siamo invece con il segretario generale di Adi Consum, Paolo Landi. Landi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, come funziona questo sito, che peraltro è già stato oggetto di una lunga sperimentazione che è durata un anno, se non vado errata? Sì, esatto. Tutti noi, abbiamo l'esigenza di risparmiare sulla benzina perché rappresenta una delle spese più rilevanti per la famiglia. Abbiamo chiesto anche al Ministero che si attivassero per realizzare un sito come ci sono in altri paesi per comparare i prezzi della benzina, ma le cose vanno lente. Allora, attraverso una collaborazione a Adiconsum Prezzi Benzina, abbiamo dato vita a questo progetto che oramai è in sperimentazione da un anno e oggi lo presentiamo, come dire, alla stampa, perché di fatto funziona. E cosa significa? Significa che attraverso il telefonino, oggi con l'iPhone, ma domani con gli altri telefonini e anche con i navigatori satellitari, sarà possibile tranquillamente collegarsi e avere esattamente dove uno è, i distributori più vicini, il distributore più conveniente, fare una ricerca per quanto riguarda eventualmente il GPL o il metano, e tutte le informazioni sono date in modo semplice e in modo gratuito. Sarà quindi possibile scegliere il distributore più conveniente, magari una pompa bianca, magari un distributore presso una GTO, o magari quello che fa uno sconto particolare, fa una promozione particolare, e quindi cercare di mettere, diciamo, il consumatore, l'automobilista in condizione di cogliere quei possibili vantaggi della concorrenza. Ecco, una cosa molto interessante, molto importante. Sì, infatti è molto importante anche il fatto che, per esempio, i prezzi dei carburanti possono essere aggiornati direttamente dagli utenti di questo servizio internet, perché per esempio nell'home page, stamattina me la sono stampata, e alla voce come funziona, il sito indica che per garantire tempestività e obiettività i prezzi li chiediamo a voi, cioè agli utenti del servizio e quindi ai conducenti delle auto e ai consumatori. Quando andate a rifornirvi, Landi, ricordatevi quanto pagate e poi pubblicate i prezzi nell'apposita sezione. Bisogna registrarsi al sito per poter fruire al massimo di tutte le informazioni. Sì, esatto, ha questo grande vantaggio che io colgo i vantaggi dell'informazione, e noi sappiamo che ci sono informazioni di differenze anche significative tra un distributore e l'altro, e allo stesso tempo chiediamo a tutti coloro che si registrano, come dire, a questo sito, a questo progetto, a questo programma, di comunicare i loro stessi dati. Basta fare una foto tranquillamente al distributore, inviarla e automaticamente viene, come dire, aggiornato il prezzo. Quindi è un progetto, diciamo così, che vede la collaborazione associazioni consumatori, prezzi vendita e gli stessi consumatori. Credo sia una cosa estremamente importante e significativa. E infatti, allora, tra l'altro, la forza anche molto interessante del sito è che è quella di poter localizzare i distributori, lo diceva prima Landi, è possibile scoprire i 10 distributori più convenienti intorno alla propria casa oppure intorno al punto in cui ci si trova, se si avesse la necessità, esatto, di fare non solo, il fornimento. Attraverso il telefonino uno tranquillamente schiaccia il tasto successivo e ha tutto il percorso per arrivarci, per cui veramente un servizio estremamente utile, estremamente comodo ed estremamente semplice. E infatti, no, tra l'altro, poi un'altra cosa importante che lei ha ricordato prima, ma io mi ci soffermerei sopra: vengono segnalati anche i distributori indipendenti, e questo è un tema molto interessante perché non ce ne sono molti sul nostro territorio, ma permettono veramente con poca pubblicità comunque di erogare un servizio molto conveniente per i consumatori che riescono ad individuarne, ad intercettarli appunto sulla strada che magari praticano abitualmente. E poi ci sono anche distributori presso i centri della grande distribuzione, anche lì ci sono delle situazioni in cui è possibile trovare dei vantaggi economici notevoli, per cui è bene che insomma l'offerta sia complessiva. E però insomma è l'offerta che mette insieme tutti i quasi 23.000-24.000 benzinai d'Italia, Landi. Sì, il tema, esatto, è un po' sempre quello, ma quando razionalizziamo questa rete? Ecco, a parte la razionalizzazione, perché ormai se ne parla da anni e da anni, il problema è che occorre rimuovere quegli ostacoli da parte delle regioni per far sì che ci siano anche degli distributori a maggiore efficienza, che facciano degli sconti, soprattutto presso la grande distribuzione organizzata, come si sono sviluppati in tutti i paesi europei, che nel nostro paese sono fortemente ostacolate dalle normative regionali. Inoltre bisogna anche rimuovere tutta una serie di vincoli per quanto riguarda gli orari di apertura perché e i prodotti in vendita, perché se si rimuovono questi ostacoli il prezzo della benzina al distributore potrebbe tranquillamente calare 5, 6, anche 8 centesimi, così parlano gli esperti. E infatti, anche perché vorrei ricordare che oggi, esatto, le quotazioni dei carburanti sono sui livelli in cui si trovavano quasi quando il petrolio era a $150, oggi siamo praticamente ad un petrolio che quota la metà, ma i livelli dei prezzi dei carburanti sono quasi su quei livelli, €1,40. Esatto, per quello che riguarda questo è un altro problema, che occorre l'intervento da parte dell'antitrust. Noi continuamente stiamo sollecitando l'antitrust a aprire un'indagine rispetto alle compagnie petrolifere, perché non è accettabile che tutte queste adeguino il proprio prezzo rispetto alle quotazioni del Brent, quando tutti sappiamo che ogni compagnia fa la sua politica di acquisti, e non è assolutamente vero che ogni giorno la compagnia faccia gli acquisti in base a quello che è la quotazione del Brent. Va bene. Quindi sono francamente degli elementi di cartello che a nostro avviso andrebbero approfonditi, lo so, e che abbiamo denunciato anche tante volte confrontandoci anche con l'industria, però siamo sempre ad un punto morto, ci sempre. In ogni caso, appunto, siccome come consumatori possiamo fare tanto, noi tutte quelle iniziative che ci consentono appunto di risparmiare, in ogni caso le presentiamo. Abbiamo ricordato Prezzo Amico delle Autostrade, oggi ribadiamo prezzibenzina.it, l'iniziativa è già in corso da un anno ma oggi viene istituzionalizzata al Ministero dello Sviluppo Economico con il sottosegretario Saglia, con Paolo Landi, con l'amministratore delegato della società che ha organizzato il sito. Landi, buongiorno e a presto, buon lavoro. Buongiorno e arrivederci. Alessandro, allora ripeto, oggi RC Auto a Salvadanaio e monitoriamo un po' questo allarme che è stato dato dall'ISBAP. Che paghiamo troppo, sempre, troppo. Come i conti correnti di 3-4 anni fa, sempre il doppio di tutto il resto d'Europa, noi paghiamo sempre tutto doppio. Alle 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora nel nostro sondaggio parliamo di scuola e di rigore, la scuola del rigore. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Ah sì, dai, un gran classicone, la notte prima degli esami di Venditti, l'esame di maturità che si avvicina. Questa notte ancora nostra, ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati. Solo che quest'anno rischia di diventare, almeno se si dovessero applicare con rigore le nuove norme del ministero, un po' di incubo per gli studenti, perché da quest'anno, se non si hanno tutti sei, non c'è l'ammissione alla maturità. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. È la nuova ordinanza del ministero, anche se ieri il ministro Gelmini è intervenuto a porta per spiegare che cosa sentiamo. Dante, e tuo fratello Ariosto. Stasera al solito posto. Io dico che rispetto alla prassi che abbiamo visto in questi anni di un'ammissione praticamente totalitaria all'esame di maturità, perché così accadeva, io credo che questa è una delle norme che noi abbiamo introdotto per un ritorno al rigore, ad una maggiore serietà negli studi. E non mi sfugge il fatto che laddove vi sia un'insufficienza in una materia, è la norma stessa a prevederlo, il consiglio di classe valuta collegialmente la possibilità di ammettere l'esame, ed è chiaro che se uno studente ha solo un 5 in una materia viene ammesso. E allora, tutti i 6 ci vogliono, ma se c'è anche un 5 il collegio di classe può decidere di ammettere. Che cos'è? Torna una sorta di 6 politico? No, per carità, so che il ministro Gelmini ha l'idea di sentire 6 politico, sicuramente se si ascolta fa un balzo sulla sedia. Io voglio salutare il professore, il preside del liceo Vittorio Veneto di Milano, Michele D'Elia. Preside, buongiorno. D'Elia, ci sente? Sì, sento malissimo, ma sento. E allora adesso miglioriamo. Ma allora che è successo? Ha sentito? Sono in mezzo alla strada, perciò se potete migliorare l'audio. E adesso lo miglioriamo, sta andando a scuola ovviamente. Sta andando a scuola. Senta, ma allora ha sentito il ministro Gelmini? Anche con un 5 si può ammettere a 6. Allora, che è? Allora, stabiliamo bene una cosa, che le norme pregresse al decreto 122 non sono state abolite, e quindi la norma per la quale il singolo professore propone il voto ed il consiglio di classe lo accetta o no, non è stato abolito. Non solo, ma è stato confermato dall'articolo 1 del decreto Gelmini 122, che al comma 3 dice. Non ci dica i commi, perché sennò ci viene il mal di testa al mattino. Il mal di testa, noi ci dobbiamo attenere a delle norme che vengono applicate col cervello e con il buon senso. Ora il ministro ha seguito questa linea, buon per lui, però noi ci eravamo arrivati molto prima. Cioè voi che avete fatto? Avete esposto i tabelloni e avete deciso che laddove molti studenti... Noi abbiamo sottoposto a votazione tutte le proposte di voto, come abbiamo fatto tutti gli anni. Ci sono stati dei consigli di classe che hanno ritenuto, dovendo valutare la personalità dell'alunno, questo dicono le regole, spero di non disturbare troppo. No, la personalità va bene. Allora, la personalità complessiva dell'alunno va valutata, e quindi alcuni 5 sono stati non trasformati, come è stato detto e scritto, ma sono stati passati, valutati 6. Preside, la legge lo consente. Sì, però mi scusi, lei dice, cioè non è che abbiamo trasformato il 5 in 6 per ammettere più persone di quelle che sennò non sarebbero state ammesse. Però mi sta dicendo, che vuol dire, sono state il 5 è stato valutato 6, è il 6 politico? Il consiglio di classe nel suo insieme non ha ritenuto di confermare un giudizio negativo del collega o della collega. Ho capito, cioè la soluzione che c'erano studenti che avevano un 5 o 2-5 ma sono ammessi con il 6. Esatto, questo lo prevede la norma, non è che abbiamo fatto niente. E a che serve, scusi, una norma allora che dice mettiamo tutti, devono... Ma è sempre stato così. Pronto? La sentiamo. Che vuol dire sempre stato così? Cioè una dei 5, ma se si vuole diventa 6 in consiglio di classe? Perché il giudizio è collegiale. E perché una sola materia non può determinare non solo l'ammissione alla maturità, ma nemmeno la bocciatura in una classe intermedia. Ma questo criterio si segue per le altre classi. E allora lei ha dato una straordinaria definizione ieri al Corriere quando le hanno detto: preside, ma questo è il sei politico. Lei l'ha definito così, mi dica se è la definizione giusta. Non lo definisco sei politico, ma attenta valutazione del profitto di ciascuno studente senza penalizzarlo a tutti i costi. Sì, signore. Confermo, cioè, il sei politico è una definizione che rifiuto, perché io non l'ho mai manco pensato, se non altro ideologicamente, proprio per... sono lontanissimo. Però mi scusi, quella... preside, le chiedo, perché intanto la sta ascoltando, io voglio salutarla, l'onorevole Valentina Prea del Popolo della Libertà, buongiorno, la faccio ascoltare, onorevole, perché secondo me è interessante il punto di partenza. Senta, preside D'Elia, il concetto è questo: un sacco di anni, perciò sa come la penso. Ma no, però io purtroppo sento pochissimo, vabbè, adesso io sto urlando, mi sta venendo il mal di testa anche urlare, preside, le dico questo, se mi sente, la questione è questa: se si fa una norma per dire basta la scuola del non rigore, in cui tutti avanti in cavalleria e si aggira collegialmente in consiglio di classe, per cui i 5 diventano 6, che rigore si potrà mai ottenere? Allora adesso le leggo l'ordinanza ministeriale dello stesso ministro Gelmini. Una sola parola, che all'articolo 2,1 dice: la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe, firmato Gelmini. 2010, l'ordinanza sulla maturità. Perfetto. Allora, o non le fanno le cose, o se le fanno in questo modo, noi le applichiamo. Ma infatti no, il ministro Gelmini ha detto anche con un 5 non si boccia, perché si può. L'ha detto lui. Lei. Vabbè, allora, onorevole Aprea, siamo qua. Ma cioè, che discutiamo? Allora, si fa una norma per dire il rigore, basta, non tutti avanti in cavalleria. E poi anche il ministro dice, però se c'è un 5 il consiglio di classe può trasformarlo in 6, perché non si boccia con un solo 5. Allora, sì, nel caso della decisione presa dall'amico D'Elia, che saluto, credo che ci sia stato un errore di metodo più che di merito, perché decidere a prescindere che il 5 diventa 6 è questo che magari può determinare una scelta ideologica. Io conosco D'Elia, so come la pensa, conosco la serietà e anche l'intransigenza del collega, quindi sono sicura che non abbia voluto intendere questo, però è questo invece che è apparso sui giornali. Nei consigli di classe è giusto e doveroso, come ha ribadito Maria Stella Gelmini ieri nella trasmissione Porta a Porta, valutare singolarmente, caso per caso, il rendimento di ogni studente e quindi eventualmente con una decisione collegiale trasformare il 5 in 6. Però onorevole, secondo non c'è il rischio che questo faccia passare, cioè, perché dov'è l'asticella? Un 5, posso dire 2 5 diventano 2 6. Vorrei spiegare la ratio della norma, perché non dobbiamo mai perdere di vista come siamo arrivati a prendere questa decisione, che peraltro il Parlamento ha sostenuto, perché anche noi abbiamo valutato il regolamento sulla valutazione. E noi, tutto questo parte da lontano, peraltro a iniziare è stato proprio il ministro Fioroni nella scorsa legislatura, che ha reintrodotto l'esame di ammissione e l'esame di Stato, prevedendo però la media del 6 e non il 6, non la sufficienza delle singole materie. Ma noi abbiamo un dovere, quello di aiutare gli studenti ad avere nelle misurazioni internazionali risultati collettivi migliori, e d'altra parte era scandaloso continuare a ottenere la promozione al liceo classico mantenendo greco magari come debito mai recuperato, persino prima dell'esame di Stato, o arrivare alla soglia della maturità tecnico-commerciale avendo magari sempre meritato l'insufficienza in matematica. Però dopo 13 questo... anni di scolarità, guardi, e 5 anni di scuola superiore, e anche lo sbarramento alla vigilia dell'esame di Stato deve garantire che il percorso degli studi ha maturato questa è la razza. Però onorevole Prea, mi scusi, questa legge secondo me è aggirabile, adesso io non lo so, non dico che il preside D'Elia o al liceo dove preside D'Elia l'abbiano aggirata, non lo so, sarà stato tutto in regola, ma è aggirabile, perché guardi, quanti cinque possono diventare sei? Noi sappiamo che comunque stimolate i migliori, cioè quelli che possiedono atteggiamenti diciamo più positivi verso la scuola e che dimostrano di avere già una discreta capacità di apprendimento scolastico, e è costretto a studiare meglio nell'architettura soprattutto della filiera liceale, ma di tutti gli istituti superiori, quelle discipline ritenute meno centrali da docenti e studenti, per esempio, o quelle più ostiche come quelle scientifiche, e quindi ha permesso di conseguire in queste materie risultati concretamente migliori. Lei dice, addirittura Rimbalzi ci dice che potrebbero essere corrispondenti a un anno di frequenza scolastica. C'è lo spauracchio di non essere ammessi, ha fatto studiare gli studenti. Vediamo. Non so, siccome ci sono molti ascoltatori, anche immagino genitori, vediamo un po'. Cominciamo da Antonella da Roma, poi dal traffico, poi sono da tutti. Antonella da Roma, buongiorno. Buongiorno. Che dice, ha figli lei? Guardi, io volevo. Pronto? Sì, dica. Volevo parlare un po' della mia esperienza. Sono una mamma, una figlia di 22 anni all'università, un ragazzo di 18 anni. Dunque, io gli anni passati è stata una cosa proprio deprimente, perché i ragazzi andavano avanti con questi 3-4 debiti e arrivavano alla maturità completamente ignoranti. E mia figlia, per esempio, è stata bocciata uno di quegli anni e la sua bocciatura è stata sacrosanta. Cioè mia figlia oggi fa l'università e quell'anno devo dire che gli è servito. Accidenti, ma è uno dei pochissimi. Antonella, lei è una dei pochissimi genitori che dice così. In genere si ricorre al TAR quando c'è una bocciatura. No, che fare? Ha fatto di un bene. Mia figlia ha fatto bene. Giurisprudenza è proprio come se fossero bruscolissimi esami, perché veramente ha preso fiato, ha ripreso quelle forze che evidentemente nel corso degli anni, le persone che sono andate avanti con tutti quei debiti non hanno fatto neanche l'università e non ci sono riusciti nemmeno a fare tanti. Quindi lei è per la scuola del rigore, un pochino più di rigore rispetto. Ma io dico che è inutile parlare di questo 5, ma è ovvio che se in una commissione c'è un ragazzo che è bravissimo in tutte le materie e magari ha difficoltà in una materia, oppure tanti professori sanno che quel professore di quella materia non vale niente, perché c'è anche questo. Certo, e c'ha un 5, mica si può bocciarlo, dice, o non ammettere la maturità per un 5. È ovvio che i professori decidano questo, no. Però io penso che il significato di questa legge è di non fare quello che negli anni passati si faceva. Di cioè tutti, avanti, tutti avanti, avanti, avanti. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora è giusto ammettere la maturità anche chi non ha tutti i sei, come prevede invece la nuova norma del ministero, anche se il ministro Gelmini ha detto di fronte a un 5 si discute collegialmente. C'è da dire che prevalgono per ora i no, cioè ci vuole il rigore, chi non ha tutti i sei stia fuori dalla maturità. Voglio sentire Daniela da Torino, buongiorno. Buongiorno, io sono un'insegnante di scuola superiore da 20 anni, sono 20 anni che faccio la maturità come commissario esterno e sono una mamma anche. Benissimo, ce le ha tutte insomma. Le ho tutte, per intervenire. Ho anche un figlio handicappato, quindi anche riguardo agli insegnanti di sostegno. Benissimo. Ho fatto il pieno. Dica allora, Daniela, ci vuole rigore? Ci sarà mai? Cioè questa norma dà più rigore secondo lei? Secondo me non cambia, cioè cambia le cose, nel senso che ci sono stati anni scandalosi quando non si recuperavano i debiti. Il problema sono i valori che noi trasmettiamo a questi ragazzi, cioè se noi gli trasmettiamo il valore che se non si fa nulla comunque si viene promossi e non succede nulla, mi chiedo che valore ha la scuola. Però, però se collegialmente un consiglio di classe trasforma un paio di cinque, per esempio questa ascoltatrice Silvia da Ivrea ci scrive: nella nostra scuola, sarà un insegnante come lei Daniela, il collegio docente ha deciso così, fino a 2-5 li si trasforma in 6, quindi 2-5 a 6, se uno ha un 4 e un 5 si discute. Ma voglio dire, Daniele, io non lo so, cioè che penso. Un 4 e un 5 si discute, 2-5 si passa con 2-6, cioè che. Ma io credo che allora, almeno nella tutto. Mia scuola si discute, nel senso che si valuta lo studente. Se io ho lo studente che si è impegnato al massimo e ha raggiunto il 5.8, perché ricordiamo va bene, che certo, sì, sì, chiaro, 5.8. Ma sì, non ma siamo lì con la mannaia, però. Ecco, se ha 5.3 in una disciplina che non è una disciplina fondamentale del corso, io insegno in un istituto tecnico e valuto che quello studente, anche se ripetesse l'anno, ha già fatto il massimo di quello che poteva fare. Allora tanto vale, insomma, dire, sei impegnato. Sei impegnato, cioè queste sono le valutazioni che noi questo, facciamo come professionisti. Questo sì, io vorrei tornare per un attimo al professor D'Elia, se ci sente ancora. D'Elia, eccoci qua, è caduta la linea, non ci sente. Allora, onorevole Aprea, di fronte all'idea di dire 2,5 li trasformo in 2,6, un 4 e un 5 si discute, cioè che linea è? Capisce quando io dico che è un po' aggirabile, nel senso che di fronte a un consiglio di classe che si riunisce collegialmente tutto può essere fatto. Le ho detto, ribadisco, sono contraria a decisioni manifesto prese in collegio dei docenti piuttosto che dalla presidenza, dall'ufficio di presidenza, a prescindere dall'esame dei consigli di classe e sui singoli studenti. Io credo semmai che il lavoro dei docenti debba ormai convergere nel far riflettere i ragazzi proprio sul valore dello studio. Sono d'accordo con l'ultima professoressa che ha preso la parola e quel cosiddetto saper essere che prepara poi insomma ad apprezzare il valore del lavoro. Sì. E riflettere sull'impegno per conseguire migliori risultati, il saper volere. Non è tempo di sprecare i talenti. Noi non possiamo accontentarci del minimo, dobbiamo chiedere il massimo agli studenti e quindi ben vengano leggi come queste. Abbiamo tollerato fin troppo e siamo stati fin troppo comprensivi. Sì, però se uno studente dovesse sapere che con un 4 e un 5 si discute, con 2,5 diventano 2,6, perché queste cose poi si vengono le a sapere che manifesto, le decisioni manifesto non vanno bene, non vanno perché bene. Non deve essere deciso a priori e a prescindere, ripeto, dalla valutazione del personale del rendimento degli studenti, anche sì. Perché come diceva giustamente la professoressa che ha voluto intervenire, ogni storia è una storia diversa. Alla fine quello che conta è che noi di fronte all'esame di Stato dobbiamo misurare le competenze acquisite e che non possono essere negoziabili più dopo 13 anni di scolarità e 5 anni di scuola. Allora vorrei, professor D'Elia, l'abbiamo recuperata, non è una scelta manifesto quella che voi avete fatto, come dire, questa nostra ascoltatrice che ci ha scritto a Ivrea, noi facciamo con 2,5 diventano 2,6, un 4 e un 5 discutiamo. Non esiste una cosa del genere. Esistono i criteri stabiliti dal collegio dei docenti, sì. Non sono numerici e sono semplicemente delle indicazioni che vengono date ai consigli di classe. Sa cosa ci scrivono molti ascoltatori? Dicono: ma cos'è il condono scolastico? La sua trasmissione in questi 5 minuti, sono qui in attesa dell'arrivo di una mia scolaresca per visitare un monumento, mi ha già fatto ritorcere le budella, perché ho sentito tanti di quei luoghi comuni che non esistono. Guardi, il rigore non è la quantità. Spero di averlo io, il numero dei nostri bocciati dell'anno scorso, 220, va bene? Va bene, ma non esiste questo, non è una valutazione seria. La valutazione è che ogni ragazzo è un caso a sé. Allora ciò che è applicabile per uno non è applicabile per l'altro. Non ci sono statistiche da fare in questo campo. No, ho capito, ma voglio dire, luoghi comuni, li avrò detto io, luoghi comuni, non certo onorevole Prezzo. Ma non è la coscienza del consiglio di classe, è una sintesi collegiale, è un'espressione della legge. Ma d'accordo, però lei professore, io so che da voi sarà stato tutto perfetto, ma ci sarà una scuola nella quale con 3,4 decidono di passare a 3,6 perché quello è simpatico? Sicuramente non è manco immaginabile. Ma no, da voi no, sarete tutti, ma io non mica la metto sotto accusa, lei dico il principio che lei può far valere in maniera precisa in un'altra scuola, può far passare l'idea che con 2,4 diventano 2,6. Questo può succedere. Questo è possibile. Questo voglio dire, insomma. Questo è possibile, ma questo le norme lo prevedono. Ripeto, o aboliscono le vecchie norme che lo prevedono e comunque non le hanno abolite perché sono scritte Capisce, è questo che dico, che è aggirabile nel momento in cui voi avete fatto tutto in modo perfetto, ma se ci sono un collegio di studenti, di docenti che decidono che con 5,4 passa tutto. I criteri devono essere pubblici. Devono essere affissi all'albo. Al mio liceo sono affissi all'albo. Va bene. Allora, preside, la lascio alla sua scaloresca, che abbiamo finito con qualche luogo comune. La ringrazio anche lei, all'onorevole Valentina Prea, ovviamente, e a tutti voi. Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, do la linea Oscar Giannino. Non dico ci vediamo domani, ci sentiamo anche domani, ma ci sentiamo anche stasera, perché quel farabutto di Cruciani, come sapete, qualche giorno non c'è e mi ha lanciato la patata bollente della zanzara. Dunque alle 18.35 la zanzara, e poi da domani. A domani.